con il critico Enrico Magrelli per presentare i suoi 5 film preferiti tra quelli usciti in sala nel 2023 e fare anche qualche considerazione sulla direzione che sta prendendo il cinema e la fruizione della sala. Ben trovato, auguri. Auguri, auguri, ben trovati, ben trovato. Allora, che anno è stato il 2023? È stato un anno complicato per molti motivi, per il cinema continua ad essere delle stagioni molto complicate, nel senso che accanto a dei film, questo accadeva anche nel passato, ma sempre di più, accanto a dei film che incassano davvero molto e quello che interessa non è tanto l'incasso, anche se poi, perché stiamo parlando di un'industria, l'incasso è decisivo, e quindi ci sono delle punte enormi e poi c'è un iceberg sommerso abbastanza o totalmente sbriciolato, qui c'è una divaricazione sempre più forte fra Barbie e le decine e decine di film che a malapena raggiungono il mezzo milione o il milione di euro di incassi, e questo non mi sembra positivo, no? Certo che il cosiddetto cinema medio, che è in difficoltà da almeno 20 anni, ora sembra completamente starinato, e questo, ripeto, non è un buon segno proprio per un rapporto costante tra lo spettatore e la sala. Si continua giustamente a esaltare la centralità della sala, ma anche lì forse dobbiamo rassegnarci a qualcosa che è già avvenuto, quindi siamo già in una fase di post-sala, non me ne vogliono gli esercenti, nel senso che poi le sale o gli schermi si sono moltiplicati, continuano a moltiplicarsi, e i dati non confortanti di questo Natale cinematografico, almeno in Italia, dimostrano come la disaffezione ormai sembra cronica. Poi ci sono dei momenti, no, in cui la febbre sembra passare, si abbassa la temperatura e le persone tornano al cinema. Ma veniamo ai film Sì. che più mi hanno colpito quest'anno per motivi molto diversi. Al primo posto metterei il nuovo film di Kaurismäki, Foglie al vento, che insieme a un film che vedremo all'inizio di gennaio, quello di Wim Wenders, Perfect Days, dimostra come il cinema, quando ritrova una propria essenzialità nei dialoghi, nei sentimenti che vengono raccontati, nella pulizia assoluta delle inquadrature, in un ritmo non concitato, e quindi sembrerebbe assolutamente in controtendenza, no? In quella specie di frenesia che poi è una frenesia che si attorciglia su se stessa. Quindi Foglie al vento forse è il mio film dell'anno. Poi il secondo film che mi sta particolarmente a cuore, che è un film bellissimo, ed è il film di Paola Cortellesi, C'è ancora domani, nella quale che cosa accade? Che una bravissima attrice al suo esordio immagina una storia, ha allo spettatore un racconto da proporre, e in questo momento, più che in passato, forse come 20 o 30 o 40 anni fa, lo spettatore vuole andare al cinema e vuole incontrare una storia, vuole incontrare dei personaggi, vuole incontrare degli esseri umani in C'è ancora domani, così come in Foglie al vento, riconoscibili, che sente vicini, che forse non vede mai nella propria vita quotidiana. E C'è ancora domani poi è stata anche un mito, che il cinema in bianco e nero non è il cinema dei vecchi, il bianco e nero che restituisce un sapore, una stagione, una geografia. Poi un altro film, resto molto in Europa quest'anno, è Io Capitano di Matteo Garrone, cioè l'idea di assimilare il proprio sguardo allo sguardo di chi vive quotidianamente da mesi, da anni, la traversata verso un mondo a torto, credo, considerato migliore, ma che sicuramente in cui alcune delle pene, delle guerre, dei dolori, della fame, delle torture non ci sono. Poi ovviamente come non pensare a Oppenheimer, che non solo dimostra il talento spesso controverso di Nolan, ma ogni volta Nolan riesce a costruire delle macchine narrative. Anche qui c'è una storia, c'è un racconto, c'è una biografia, anche se fatta in modo non piatto o monotono. Ogni volta Nolan propone ai suoi spettatori l'incontro con un'esperienza cinematografica, in cui stare in una sala per lo spettatore ha un senso, in cui il grande schermo non è soltanto la generica retorica e polverosa, no? La magia del grande schermo. La magia del grande schermo c'è quando sullo schermo, dentro lo schermo, ci sia poi una sostanza vera. Segnalerei a parte un documentario davvero notevole che si può incontrare anche in televisione ed è Io, Noi e Gaber. Tutti questi esempi, me ne sto accorgendo ora, ci portano in un mondo, in un modo di concepire lo spettacolo, di fare e di vivere lo spettacolo e la storia minuta, quotidiana delle persone di qualche tempo fa. Quindi apparentemente, usando una espressione che forse non significa nulla, sono storie che si sottraggono a un'idea fasulla della modernità. Enrico, ci sentiremo nel corso dell'anno e auguri. Certo, ma anche a te, stai bene, buon lavoro. Ciao, ciao Federico.